Europa 24. Ben ritrovati dalla redazione da Valeria De Rosa. In apertura i dati che riguardano Francia e Gran Bretagna. Nel terzo trimestre il PIL della Francia è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, numeri che confermano la stima preliminare. Nello stesso periodo il rapporto debito-PIL della Francia è salito al 95,2%. In Gran Bretagna il prodotto interno lordo nel terzo trimestre è cresciuto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% rispetto allo stesso trimestre del 2013. Quest'ultimo dato è leggermente inferiore alla stima preliminare. Ci spostiamo in Grecia, dove per la seconda volta i parlamentari non sono riusciti a eleggere il presidente. Il candidato del governo, Stavros Dimas, non è riuscito a raggiungere il quorum di 200 voti richiesto per diventare capo dello Stato. Un terzo tentativo, con un quorum più basso, verrà fatto il 29 dicembre. Se dovesse fallire, il paese andrebbe a elezioni anticipate. Al momento, il primo nelle preferenze è Syriza, partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras. Parliamo adesso di scali aeroportuali. Qualche giorno fa la Corte dei Conti europea ha pubblicato un report in cui mette in luce che l'Unione ha fatto nel settore degli aeroporti investimenti non vantaggiosi. Monitorati 5 paesi, Grecia, Estonia, Italia, Polonia e Spagna. 600 milioni spesi tra il 2000 e il 2013, 129 milioni non hanno generato il ritorno sperato. Anzi, i risultati sono stati di gran lunga al di sotto delle aspettative. Dati da leggere con attenzione però. Oliviero Baccelli è docente alla Bocconi, vice direttore del CERTET. Per quanto riguarda gli aeroporti nelle aree periferiche ci sono state delle ambizioni che poi non si sono rivelate costruttive, nel senso che dal 2008 in avanti il prezzo del petrolio ha drasticamente ridotto alcuni tassi di crescita relativi al settore del trasporto aereo, per quanto riguarda soprattutto questo tipo di direttrici, cioè quelle stagionali, quelle verso aree periferiche, e allo stesso tempo anche le contribuzioni pubbliche che un tempo venivano affidate direttamente alle compagnie aeree, sia attraverso marketing molto spinto, sia attraverso magari servizi pagati direttamente dai ministeri nell'ambito di contratti di onere di servizio pubblico, hanno avuto una forte riduzione, perché nello stesso periodo la Commissione europea ha stretto tutti i regolamenti relativo a questo tipo di attività che venivano configurate come aiuti di Stato. Quindi la sommatoria di trend di mercato naturali e la drastica riduzione della contribuzione pubblica ha fatto sì che appunto le aspettative di tante aree periferiche venissero un poco mortificate. Da contraltare è naturale che ci siano errori di pianificazione di vario tipo, perché appunto ci sono trend di mercato che continuano a evolversi piuttosto che disperati bisogni, perché in alcune aree veramente periferiche, penso al sud Italia piuttosto che alcune isole greche, piuttosto che alcune aree al di fuori dei grandi circuiti turistici della Spagna, ecco, si affidavano all'aeroporto come una sorta di ancora di salvezza per uscire da forme di insularità piuttosto che perifericità che venivano evidenziate come particolarmente negative per lo sviluppo economico. Qual è stato l'errore più costoso a livello europeo? Più costoso in assoluto è stato quello relativo alla progettazione dell'aeroporto di Berlino, non per consolarsi ma per dire che anche su progetti particolarmente rilevanti e consistenti sono stati commessi degli errori che hanno avuto dei costi decisamente superiori. L'errore nella pianificazione dell'aeroporto di Berlino vale sicuramente oltre 1 miliardo di euro. Ovviamente ogni euro speso male è un errore gravissimo, per di più in questa crisi economica, ma se andiamo a distribuire per 10 anni 129 milioni di euro in aree periferiche, dove nel sud Italia ad esempio si sprecano miliardi di fondi comunitari per altre tipologie di infrastrutture, è veramente una piccola goccia. Parte della colpa di questi fondi spesi male sta anche nel fatto che la Commissione spesso non sa dove poi in realtà vanno a finire, quindi manca anche lì una progettualità. Diciamo che che ogni contesto deve essere guardato con attenzione, perché non ce n'è uno uguale all'altro e ci sono delle peculiarità specifiche. I costi di gestione di un aeroporto piccolo, se vengono studiati con attenzione e senza sprechi, sono relativamente contenuti, per cui è chiaro che ci sarà una serie di investimenti che non verranno valorizzati al 100% con le logiche privatistiche e che la società di gestione andrà sussidiata ogni anno con alcune centinaia di migliaia di euro. Ma i riflessi economici diretti, indiretti e indotti sulla provincia sono sicuramente interessanti. Ed è tutto per questo appuntamento con Europa 24. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.